In campagna, capitolo diciassettesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello, dicembre 2007. Mirice, di Giovanni Pascoli. Capitolo diciassettesimo. In campagna. Primo. Il vecchio dei campi. Al sole, al fuoco, sue novelle appronte il bianco vecchio dalla faccia austera, che si ricorda solo ormai del ponte quando non c'era. Racconta al sole, i buoi fumidi stanno fissando immoti la sua lenta fola, come far sacca si dové quell'anno delle lenzuola. Racconta al fuoco, sfrigola bel bello un ciocco d'olmo intanto che ragiona, come a far erba uscisse col rondello buovo d'Antona. Secondo, nella macchia. Errai nell'oblio della valle, tra ciuffi di stipe fiorite, tra querce rigonfie di galle. Errai nella macchia più sola, per dove tra foglie marcite spuntava l'azzurra viola. Errai per i botri solinghi, la cincia vedeva dai pini, sbuffava i suoi piccoli ringhi argentini. Io siedo invisibile solo tra monti e foreste, la sera non freme d'un grido, d'un volo. Io siedo invisibile e fosco, ma un cantico di capinera si leva dal tacito bosco, e il cantico all'ombre segrete, per dove invisibile io siedo, con voce di flauto ripete: io ti vedo. Terzo, il bove. Al rio sottile, di tra vaghe brume, guarda il bove coi grandi occhi. Nel piano che fugge, a un mare sempre più lontano, migrano l'acque d'un ceruleo fiume. Ingigantisce agli occhi suoi, nel lume polverulento, il salice lontano. Svaria sull'erbe un gregge a mano, e parla mandra dell'antico nume. Ampie ali aprono immagini grifagne nell'aria. Vanno tacite chimere, simili a nubi, per il ciel profondo. Il sole immenso, dietro le montagne, cala, altissime. Crescono già, nere, l'ombre più grandi d'un più grande mondo. Quarto, la domenica dell'ulivo. Hanno compiuto in questo dì gli uccelli il nido. Oggi è la festa dell'ulivo, di foglie secche, radiche, fuscelli. Quel sul cipresso, questo sull'alloro, al bosco, lungo il chioccolo d'un rivo, nell'ombra mossa d'un tremolio d'oro. E covano sul musco e sull'ichene, fissando muti il cielo cristallino, con improvvisi palpiti, se viene un ronzio d'ape, un vol di maggiolino. Quinto, vespro. Dal cielo roseo pullula una stella. Una campana parla della cosa col suo grave dandan dalla badia, onde tra i pioppi tinti di color rosa suona un continuo scalpicciar per via. Passa una lunga e muta compagnia con fasci di trifoglio e lupinella. Una fanciulla cuce ed accompagna, cantarellando dalla nera altana, un canto che s'alzò dalla campagna quando nel cielo tacque la campana. S'alzò da un olmo solo in una piana, da un olmo nero che da sé stornella. Sesto, canzone d'aprile. Fantasma tu giungi, tu parti in mistero. Venisti o di lungi? Che lega già il pero, fiorisce il cotogno laggiù. Di cince e fringuelli risuona la ripa. Sei tu tra gli ornelli, sei tu tra la stipa. Ombra, anima, sogno. Sei tu? Ogni anno a te grido con palpito nuovo. Tu giungi, sorrido. Tu parti, mi trovo due lacrime amare di più. Quest'anno, oh, quest'anno la gioia vien teco, già lodo, o m'inganno, quell'eco dell'eco, già todo cantare, cucù. Settimo, alba. Odoravano i fior di Vitalba per via, le ginestre nel greto. aliavano prima dell'alba le rondini nell'uliveto. Aliavano mute con volo nero, agile di pipistrello. E tuttora gemea l'assiolo che già spincionava il fringuello. Tra i pinastri era l'alba che i rivi mirava di scendere giù. Guizzò un raggio, soffiò sugli ulivi. «Virb!» disse una rondine. E fu un giorno di pace e lavoro, che l'uomo mieteva il suo grano. E per tutto nel cielo sonoro saliva un cantare lontano. Ottavo. Dall'argine. Posa il meriggio sulla prateria. Non ha la orma ombra nell'azzurro e verde. Un fumo al sole biancica, via via fila e si perde. Ho nell'orecchio un turbinio di squilli, forse campani di lontana mandra, e tra l'azzurro penduli gli strilli della calandra. Nono. Il passero solitario. Tu nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera come nel santuario monaca prigioniera l'organo a fior di dita. Che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo tre sole in un istante, fuse, tre come tre parole che ella ha sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario. Decimo. Stoppia. Dov'è campo il brusio della maretta quando rabbrividivi ai libeccioli? Ti resta qualche fior d'erba cornetta, i fioralisi, i rosolacci soli, e nel silenzio del mattino azzurro cercano invano il solito sussurro, mentre nell'aia là del contadino trebbiano nel silenzio del mattino. Dov'è campo il tuo mare ampio e tranquillo, col tenue vel di reste ai pleniluni? Pei nudi solchi trilla trilla il grillo, lucciole vanno per i solchi bruni, e nella sera con ansar di lampo cercano il grano nel deserto campo, mentre tuttora là dalla riviera romba il mulino nella dolce sera. Undicesimo. L'assiuolo. Dov'era la luna? Che il cielo notava in un'alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano a meglio vederla. Venivano soffi di lampi da un nero di nubi laggiù. Veniva una voce dai campi. Chiù. Le stelle lucevano rare, tra mezzo alla nebbia di latte. Sentivo il cullare del mare, sentivo un frufru tra le fratte. Sentivo nel cuore un sussulto, come eco d'un grido che fu. Sonava lontano il singulto. Chiù. Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento, squassavano le cavallette finissimi sistri d'argento, tintinni a invisibili porte che forse non s'aprono più, e c'era quel pianto di morte. Chiù. Dodicesimo. Temporale. Un bubbolio lontano. Rosseggia l'orizzonte come affocato a mare. Nero di pesce a monte, stracci di nubi chiare, tra il nero un casolare, un'ala di gabbiano. Tredicesimo. Dopo l'acquazzone. Passò scrosciando e sibilando il nero nembo. Or la chiesa squilla, il tetto rosso luccica. Un fresco odor dal cimitero viene di bosso. Presso la chiesa, mentre la sua voce tintinna, canta, a onde lunghe romba, ruzza uno stuolo e dalla grande croce tornano a bomba. Un vel di pioggia vela l'orizzonte, ma il cimitero sotto il ciel sereno placido lezza. Va da monte a monte l'arcobaleno. Quattordicesimo. Pioggia. Cantava al buio d'aia in aia il gallo e gracidò nel bosco la cornacchia. Il sole si mostrava a finestrelle. Il sol dorò la nebbia della macchia, poi si nascose e piove a catinelle. Poi fra il cantare delle raganelle guizzò sui campi un raggio lungo e giallo. stupiano i rondinotti dell'estate di quel sottile scendere di spille. Era un brusio con languide sorsate e chiazze larghe e picchi a mille, poi singhiozzi e gocciar rado di stille d'oro in coppe di cristallo. Quindicesimo, sera d'ottobre. Lungo la strada vedi sulla siepe ridere a mazzi le vermiglie bacche. Nei campi arati tornano al presepe tarde le vacche. Vien per la strada un povero che il lento passo tra foglie stridule trascina. Nei campi intuona una fanciulla al vento, fiore di spina. Sedicesimo, ultimo canto. Solo quel campo, dove io volga lento l'occhio, biondeggia di pannocchi ancora, e il solicello vi si trascolora. Fragile passa fra cartocci il vento. Uno stormo di passeri si invola. Nel cielo è un gran pallore di viola. Canta una sfogliatrice a piena gola. Amor comincia con canti e con suoni, e poi finisce con lacrime al cuore. Diciassettesimo. Il piccolo bucato. Come tetra la sizza che combatte gli alberi brulli e fa schioccar le rame secche e sottile fischia tra le fratte. Sur una fratta, o forse un biancordale, un corredino ride in quel marame, fasce, bavagli, un piccolo guanciale. Ad ogni soffio del rovaio che romba, le fasce si disvincolano lente e da un tugurio triste come tomba giunge una nenia lunga, paziente. Diciottesimo novembre. Gemme all'aria il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco è il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno. È vuoto il cielo e cavo al piè sonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate odi lontano da giardini ed orti di foglie un cader fragile, è l'estate fredda dei morti. Fine del capitolo diciassettesimo.